Un saluto a tutte le ascoltatrici del martedì autogestito da femministe e lesbiche di Radio Onda Rossa. Avrete sentito qualche attimo di silenzio, ci scusiamo per l'inconveniente tecnico, ma ora andiamo a incominciare veramente la seconda puntata del ciclo di Trasformazioni Femministe. Trasformazioni Femministe, un ciclo di trasmissioni curato da Che Spazio per una ricerca queer e postcoloniale che in quest'anno 2014-2015 è dedicato alle pratiche femministe, a come le pratiche femministe stanno trasformando la realtà in cui viviamo e come il femminismo stesso si trasforma. Allora, la puntata di oggi di Trasformazioni Femministe è dedicata dallo sciopero sociale allo sciopero dei e dai generi. Parleremo dello sciopero dei e dai generi insieme ad alcune compagne che hanno partecipato a una rete ricchissima ed eterogenea che si è strutturata in diverse città d'Italia attorno alla data dello sciopero sociale del 14 novembre scorso. Allora, come vi dicevo, parleremo dello sciopero dei generi insieme ad alcune compagne che hanno contribuito a costruirlo. Abbiamo qui ospiti in studio una compagna di Alexis e altre due compagne, Gea e Alessia, che hanno partecipato appunto a questa rete cittadina molto ampia che si è costituita attorno a quella giornata e che continua a portare avanti il percorso e ha in serbo altri appuntamenti di cui parleremo nel corso della trasmissione. E poi ci collegheremo anche al telefono con una compagna invece della rete Smascheramenti da Bologna. Prima di dare voce alle nostre ospiti, cominciamo con una breve introduzione. Diamo la parola per prima a Valeria di Che Spazio, alla quale volevo chiedere di cominciare a ragionare insieme su perché abbiamo scelto di parlare dello sciopero dei generi in una trasmissione all'interno del martedì femminista, quindi perché ci interessa da una prospettiva femminista parlare dello sciopero sociale e dello sciopero dei generi. Che ne dici? Dunque, allora, ciao a tutte, cercherò di introdurre alcuni punti su cui poi torneremo insieme alle altre durante la trasmissione. Quindi, perché lo sciopero sociale ci interessa? Innanzitutto forse può essere utile dare una prima definizione di che cos'è questo sciopero sociale, proprio per capire dov'è il punto che ci preme, ci interessa, ci ha coinvolte. E quindi insomma lo sciopero di quei lavoratori, di quelle lavoratrici che appunto non hanno la possibilità di scioperare, quindi di per sé già diciamo, la caratteristica dello sciopero sociale è di porsi come una sfida, no? Proprio perché vuole coinvolgere in un'attività appunto come quella dello sciopero tutti quei lavoratori e quelle lavoratrici italiane o appunto di origine straniera che hanno un lavoro cosiddetto precario, flessibile, che è un lavoro reso invisibile, un lavoro appunto che non ha orari, e quindi insomma una serie di caratteristiche del lavoro che noi conosciamo bene. E quindi innanzitutto proprio per questo motivo noi pensiamo che lo sciopero sociale vada visto appunto come anche un percorso, non è un episodio circoscritto. Ora, uno dei tratti appunto di questo di questa esperienza del lavoro che dovrebbe e vorrebbe scioperare è quello appunto di essere reso invisibile. Questo ci è sembrato uno dei punti che ci chiamava in causa, proprio appunto perché questa caratteristica dell'invisibilità la ritroviamo proprio nel lavoro che è storicamente assegnato alle donne, che le donne storicamente svolgono dentro lo spazio domestico. Quindi parliamo del lavoro cosiddetto di cura, tutto ciò che avviene dentro la casa, quindi intendiamo non solo appunto il lavoro che è volto a la cura della casa, lavare, preparare i pasti, ma anche tutto quel lavoro che potremmo anche chiamare come un lavoro più riproduttivo nel senso ampio di riproduzione sociale, quindi un lavoro che mette in campo una serie di energie mentali che sono appunto quelle che tipicamente relazionali, quindi quelle caratteristiche considerate tipicamente femminili di disponibilità, di ascolto, di capacità appunto di sintonizzarsi sulle necessità degli altri membri della famiglia. Quindi da una parte diciamo un lavoro che è volto proprio anche diciamo fisico, materiale, manuale di cura di tutti i membri del nucleo familiare che sono non dipendenti ma anche di quelli che sono dipendenti, come appunto il tipico esempio quello dell'uomo adulto, ma anche un lavoro più relazionale. Ecco, diciamo che innanzitutto il femminismo, il lavoro delle femministe, la pratica femminista ha tirato dall'ombra, ha tolto dall'invisibilità questo tipo di lavoro, e questo è molto importante. E tuttavia appunto parallelamente cosa è successo? Che alcune caratteristiche di questo lavoro svolto dalle donne dentro lo spazio domestico sono state cooptate, sono state inglobate, sono state anche valorizzate da un mercato del lavoro che si è trasformato, che appunto è il mercato del lavoro come lo conosciamo noi oggi, no? Il mercato del lavoro segnato dalla globalizzazione neoliberista, e quindi ci troviamo appunto di fronte ad una situazione che ci interessa, ci interroga, su cui appunto un po' vorremmo riflettere, perché da una parte le donne continuano dentro lo spazio domestico a svolgere questo lavoro, quindi non c'è stato un cambiamento, mentre fuori svolgono delle occupazioni dove sono richieste queste caratteristiche. Ora ovviamente queste, come vedremo, queste caratteristiche di disponibilità costante nel tempo e di anche capacità di sintonizzarsi su le necessità degli altri sono diciamo sono richieste a tutte le lavoratrici, a tutti i lavoratori, no? Questo è il problema. E poi forse allora mi verrebbe da dire che comunque invece in quanto femministe, vista la riflessione a cui tu accennavi prima, ricchissima insomma negli anni passati rispetto alla questione appunto del lavoro domestico e di cura invisibilizzato e non riconosciuto, sicuramente abbiamo degli strumenti, abbiamo una cassetta degli attrezzi, e direi che insomma possiamo dire che in quanto femministe siamo avanti nella riflessione in tutto questo. Eppure questa riflessione femminista non è diventata patrimonio condiviso nei movimenti, anche nei contesti, nei percorsi politici misti, e quindi proprio per questo possiamo dire che ci interessava oggi parlare dello sciopero sociale e dello sciopero dai generi da una prospettiva esplicitamente femminista, no? Esatto. E l'altro motivo che ci ha spinto, no, a dedicare questa puntata di trasformazione femministe allo sciopero sociale, che all'interno del percorso dello sciopero sociale si è collocata un'iniziativa che è quella appunto dello sciopero dei dai generi, di cui appunto parleremo più avanti e cercheremo anche di spiegare che vuol dire nella pratica, perché ovviamente come espressione è un po' criptica. E comunque insomma si tratta appunto di uno sciopero inteso in modo creativo, quindi questa sarà sicuramente la prima questione che dovremmo affrontare, cioè come si mette in atto uno sciopero dei dai generi. Comunque una, diciamo, giusto per anticipare alcune questioni, uno sciopero dei dai generi possiamo pensare sia uno sciopero da quel diciamo da quel lavoro che facciamo, dalle energie che mettiamo per adeguarci a dei comportamenti costruiti come appunto dei comportamenti di genere corretti, sia anche insomma lo sciopero dei dai generi è stata un'occasione per capire come invece queste differenze di genere sono messe anche a valore dentro il mercato del lavoro, no? Quindi anche come le differenze nelle sessualità sono cooptate, sono inglobate dentro il mercato neoliberista, quindi si pongono molte questioni che riguardano, magari forse diciamo una presentazione un po' astratta, invece riguardano la nostra vita materiale, la vita di tante di tanti di noi. Un'ultima caratteristica che volevo giusto ricordare di questa puntata di trasformazioni femministe è quella appunto di aprirsi su delle pratiche femministe che si inseriscono in un percorso misto, quindi questa è diciamo un po' una novità rispetto alle altre puntate, ma appunto il fatto di parlare di sciopero sociale e di inserire lo sciopero dei generi dentro lo sciopero sociale ha portato appunto questa caratteristica di incrociare altri gruppi misti, e quindi uno dei punti su cui vorremmo riflettere insieme alle nostre ospiti è proprio questo: quali sono le caratteristiche, anche a volte le difficoltà, di portare una serie di riflessioni che sono di carattere di origine queer e femminista dentro un percorso invece che è misto e dove non c'è questa esperienza. Benissimo, allora le questioni di cui parlare in quest'ora di trasmissione sono tantissime, quindi una breve pausa musicale e poi daremo voce alle nostre ospiti. Cause I must allora riprendiamo la nostra chiacchierata. Siete sempre in ascolto del martedì autogestito da femministe e lesbiche di Radio Onda Rossa. Questa è Trasformazioni Femministe e volevamo parlare, allora abbiamo detto che la trasmissione è dedicata appunto allo sciopero sociale, allo sciopero dei e dai generi. Una cosa che ci ha colpito molto era che il comunicato che lanciava appunto l'appuntamento dello sciopero dei generi per il 14 febbraio si concludeva rivendicando un reddito di autodeterminazione, e questo del 14 novembre, scusatemi, oggi è la giornata dei lapsus, e allora parlavamo di reddito di autodeterminazione, quindi ovviamente sentendo questa rivendicazione non abbiamo potuto evitare di ricordare che appunto si tratta di una rivendicazione emersa da percorsi e pratiche collettive femministe, e quindi volevo passare la parola adesso a un'altra compagna di Che Spazio per cercare di ragionare un attimo su come è emersa questa rivendicazione all'interno dei percorsi femministi prima di arrivare appunto a questo percorso attuale dello sciopero sociale, perché insomma non è una rivendicazione che nasce oggi e quindi ci sembrava giusto anche riconoscere i passaggi che hanno portato ad arrivare fino a qui, no? Esatto, infatti oltre a salutare tutte le compagne in ascolto voglio sin da subito dire che è stato veramente una lieta sorpresa quella di trovare nella convocazione del sciopero dai generi la rivendicazione per il reddito per l'autodeterminazione. Questo perché questa rivendicazione è stata formulata da un collettivo che è stato attivo fino a qualche anno fa, che si chiamava Matrix, che ha tentato di declinare alla luce delle modificazioni del mondo del lavoro e dei modi di produzione una vecchia rivendicazione del femminismo italiano, in particolare quella parte del femminismo che rivendicava per le donne un salario per il lavoro domestico. Alla luce delle modificazioni delle capacità e delle esperienze messe in campo nel mondo del lavoro, che hanno comportato una richiesta anche nei confronti degli uomini di parte di quello che, come prima è stato ben detto, può chiamarsi lavoro di riproduzione, quindi tutto ciò che ha a che fare con gli aspetti relazionali, di cura, di valorizzazione degli altri, di presa in carico anche dei buchi e delle mancanze altrui, un famoso multitasking in senso sincronico. Ecco, alla luce di questo noi non ci siamo volute sottrarre a suo tempo a una riflessione su quella che era la rivendicazione di un reddito universale, minimo. Le definizioni, come sappiamo tutte, sono tra le più svariate, e in particolare però ci premeva modificare l'argomentazione politica che era la base di una richiesta di un reddito incondizionato, e in particolare utilizzando proprio quanto era stato messo in evidenza dalle femministe degli anni 70, quindi la necessità di avere un intervento che potesse colmare quelle diseguaglianze economiche e sociali che caratterizza ancora la condizione delle donne, in modo tale che sia possibile non solo autodeterminarsi rispetto al mondo del lavoro laddove abbia delle richieste inaccettabili, ma al tempo stesso la possibilità stessa di sottrarsi al mondo della riproduzione e quindi dalla famiglia. Con questo che cosa si intende dire? Che nel caso in cui una donna sia costretta per motivi materiali a essere vincolata all'interno della sfera domestica e non vede prospettiva di liberazione da questa sfera, la possibilità di avere un reddito di esistenza può essere uno strumento utile alla propria liberazione, alla possibilità di cambiare la propria vita e decidere di sottrarsi sia a un lavoro inaccettabile, sia a un lavoro di cura, a un lavoro domestico, a un lavoro riproduttivo, anch'esso eventualmente inaccettabile. Questa prima elaborazione femminista, che è stata portata anche alla FLAT, cioè all'incontro nazionale che si è tenuto nel 2009 a Roma, è stata ulteriormente sviluppata da un altro gruppo che ha avuto una vita decisamente più breve, bruta, che volle tentare di andare oltre la rivendicazione di un reddito per la autodeterminazione, sottolineando quanto sia necessario non solo pretendere ciò che è dovuto, ma anche tentare di modificare lo stato delle cose presenti. E un modo per tentare di modificare l'attuale sistema della nostra società è quello di invertire il rapporto tra produzione e riproduzione. Cioè, Bruta sottolineava quanto fosse determinante una seria critica a un sistema neoliberista che costringe la riproduzione ad essere funzionale alla produzione e quindi al sistema economico. Al contrario, Bruta insisteva sul fatto che fosse necessario mettere in crisi questa funzionalizzazione di tutto ciò che è vita relazionale, valorizzazione degli affetti, cura della persona, eccetera, per favorire la produzione, ma invece invertire, cioè sono i modi della produzione che devono consentire a ciascuna e a tutti di poter sviluppare pienamente tutta la propria sfera riproduttiva in senso lato. E questa riflessione è un peccato che non venga valorizzata fino in fondo anche nel dibattito politico più generale, anche se ci sembra che invece proprio questa occasione dello sciopero sociale, in particolare lo sciopero dei generi, segni forse un momento di discontinuità rispetto alla non considerazione dell'elaborazione femminista da parte del dibattito più generale. Ecco, è proprio questo il nodo su cui vorremmo concentrarci adesso nel seguito della trasmissione, quindi io direi adesso invece di dare la parola alla compagna di Alexis che è qui con noi per parlare appunto dello sciopero sociale del 14 novembre scorso. Dicevamo che ovviamente chi ha ascoltato la radio nei mesi scorsi ha seguito tutto il percorso e le mobilitazioni che si sono svolte a Roma e in diverse città d'Italia nella giornata del 14 novembre. Però per collegarlo alla riflessione femminista su questi temi ci sembrava importante cercare di riepilogare un po' che cosa ha significato questo sciopero sociale e qual è stato il percorso che ha portato a costruire questa rete così ampia anche a livello nazionale. Quindi vogliamo raccontare che cosa intendiamo per sciopero sociale e come si è tradotto in pratica? Allora, ciao a tutte e tutti. Ciao, benvenuta, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Allora, sono molto d'accordo con quello che diceva Valeria all'inizio, che lo sciopero sociale è una conquista, è una conquista come ogni spazio di liberazione. In questo senso penso sia importante ricordarsi un po' quando lo sciopero sociale è nato e da cosa è nato. È nato in un contesto di profonde trasformazioni, come sappiamo, che hanno cambiato una cultura politica attraverso una serie di riforme, dal decreto Lupi al decreto Poletti, alla buona scuola e allo sblocca Italia. In questo contesto di profonda trasformazione e anche di forte repressione abbiamo sentito l'esigenza di prendere parola e di rompere il silenzio che stava accompagnando l'approvazione e la discussione di queste riforme, proprio per non chiuderci in un immobilismo, consapevoli che rimanere zitti in quel momento e zitte sarebbe significata l'impossibilità o una difficoltà ancora maggiore a riuscire a lottare e a prendere parola successivamente. In questo senso la prima esigenza è stata quella di creare degli spazi pubblici in cui discutere e in cui riuscire a costruire quella coalizione, una coalizione sociale fatta di soggetti diversi, proprio perché riteniamo di non essere sufficienti da soli ad affrontare questa fase, che nessuno è sufficiente a se stesso in questo momento, e quindi la necessità proprio di dare vita a dei processi larghi ed espansivi che riuscissero ad andare oltre delle date, oltre dei momenti, ma a guardare veramente al futuro, a un processo continuativo, ci sembrava l'opzione principale. Quindi inizialmente l'idea dello strike meeting che ha preceduto quella dello sciopero sociale guardava a questo, alla possibilità anche di mettere un po' in crisi quelli che sono meccanismi identitari o giochi tra egemonie di aree che in questa fase sicuramente non pagano. E il primo tentativo è stato quello appunto di riuscire a opporsi all'approvazione del decreto Poletti e continuare a portare un'offensiva contro il Jobs Act, proprio perché sappiamo tutti in cosa si traduce. Si traduce in una precarietà a vita, si traduce in sfruttamento intensivo, in lavoro servile e gratuito, e non solo, si traduce anche nell'individualizzazione ulteriore dei dispositivi di potere e in questo senso anche legato alla repressione, a una gestione dei conflitti sempre più complessa e a cui è sempre più complicato rispondere. Ovviamente non si parte da zero, e in questo senso l'urgenza che si è sentita è quella di ricomporre ed estendere le lotte, non tramite delle sommatorie, ma piuttosto cercando di innescare processi e tramite forme capaci di far moltiplicare queste lotte, di farle intrecciare e di contaminarsi a vicenda. In questo senso abbiamo ripreso suggestioni che già erano presenti nei movimenti, che partivano dall'esigenza di uno sciopero del lavoro dipendente quanto del lavoro precario, uno sciopero metropolitano dei migranti, a uno sciopero digitale e non per ultimo uno sciopero dei generi, proprio nell'idea che il genere è un mezzo di produzione sociale, come si diceva prima. E essenzialmente il lavoro è stato organizzato su due piani: uno molto legato alla comunicazione sociale, cioè quello di riuscire a valorizzare tramite questo processo collettivo le intelligenze singole, precarie, organizzate o non, in un percorso appunto che fosse intelligibile, non chiuso identitario, e verso la costruzione di un nuovo soggetto sociale che noi abbiamo in qualche modo, a cui abbiamo provato a dare forma tramite questi striker che per fortuna sono diventati anche indipendenti da gli stessi che erano dentro al processo dello sciopero sociale. Spieghiamolo, no? Sono queste sagome che abbiamo visto attaccate sui muri, gli adesivi insomma in rete, che rappresentavano appunto lavoratori e lavoratrici con le braccia incrociate insomma evidentemente erano lavoratori e lavoratrici di diverse categorie sociali e cercavano di includere tutte quelle soggettività che, come dicevi tu, non hanno modo di fare rete, di allearsi e non hanno nemmeno il diritto di sciopero molto spesso, no? O comunque di costituirsi in soggetti collettivi per ribellarsi alle forme di sfruttamento che subiscono quotidianamente. Scusa la postilla, no. Però per far capire a chi ci ascolta, che avrà visto queste figurine colorate in giro per le città e che appunto, come dicevi tu, hanno a un certo punto cominciato ad avere vita propria, perché ognuna le reinterpretava a modo suo, a partire da sé, no? Sì, ma non solo le reinterpretava, ma si è anche andati un pochino fuori la figura del lavoratore o della lavoratrice in senso classico, nel senso uscito lo striker di Dalì, lo striker di Frida Kahlo. Appunto, piano piano, in qualche modo, la necessità di alludere a una precarizzazione che va oltre i luoghi del lavoro, come sappiamo bene, ma che è complessiva delle vite, si è anche tradotto tramite questi striker, come tramite le bionarrazioni, altro non erano che gli striker che prendevano parola. Un lavoro che è nato un po' da un'autoinchiesta fatta anche dentro gli stessi soggetti che hanno dato vita allo strike meeting, che comunque era partito come una scommessa e ha visto centinaia e centinaia di persone in un momento appunto di difficile da affrontare politicamente, non era poco, quindi un'intuizione che forse è anche giusto valorizzare, perché all'inizio è servita molto, è stato il metodo utilizzato anche all'interno di questo processo. Quindi riconoscere che già quello che siamo, come si diceva prima, cioè non partiamo da zero, partiamo da una ricchezza prodotta negli anni, e la capacità di metterla insieme in comune a potenza è stata ed è la centralità di questa sperimentazione. E in qualche modo quindi la parte più legata alla comunicazione serviva, oltre che per produrre un immaginario in cui fosse possibile non solo riconoscersi, ma arricchire riuscire in qualche modo a innescare i processi di consapevolizzazione. Questo proprio per riuscire a rovesciare le narrazioni tossiche prodotte da questa governance e in questi termini anche riuscire a rovesciare almeno in parte la paura che ci viene indotta ogni giorno. L'altro piano, per farla stretta, visto che mi fanno ti faccio segni perché vogliamo dare voci a tutte e soprattutto anche collegarci con Bologna per insomma spiegare cosa è stato e cosa continuerà a essere questo sciopero dai generi, ma ovviamente non volevo toglierti la parola, finisci quello che stavi dicendo. Sì, è che è stato un processo talmente articolato che è veramente difficile riuscire a sintetizzarlo. Vabbè. L'altro, diciamo, l'altra parte di lavoro è stato il tentativo di rispondere anche in modo più concreto a quello che sono gli attacchi che stavamo subendo, quindi cominciando a stilare una serie di punti di piattaforma che vanno appunto dall'estensione dello statuto dei lavoratori, che poi invece il 24 dicembre è stato totalmente cancellato con l'approvazione dei primi decreti attuativi, e un salario minimo europeo. Proprio perché, cosa che mi sono dimenticata invece importantissima, è lo sguardo all'Europa come terreno di prossimità e di conflitto rispetto appunto all'organizzazione di movimenti capaci di contrastare le politiche di austerity. E tra le varie rivendicazioni appunto si parlava prima del reddito, di un reddito di base universale che trova nella declinazione dello sciopero dei generi forse la lettura anche più avanzata di quello che rappresenta, cioè un orizzonte rivendicativo e di riappropriazione in qualche forma capace di rappresentare un elemento di generalizzazione e quindi anche di ricomporre mondo del lavoro e mondo del non lavoro. O il diritto alla genitorialità, su cui magari poi si esprimeranno anche successivamente le altre compagne. E per stringere il 14 novembre. Ci siamo arrivate. Ci siamo arrivate. E beh, insomma, ci sono state mobilitazioni in tantissime città d'Italia, no? Ne parlavamo prima fuori onda. Beh, diciamo che in 45 città d'Italia c'è stata la capacità di dare vita a piccole o grandi mobilitazioni. E questa è sicuramente una nota di merito, così come la dimostrazione che in qualche mese si è riusciti a dare vita anche a dei laboratori radicati nei territori, capaci di mettere insieme varie realtà e varie soggettività, è un'altra ricchezza che ha prodotto questo processo. In particolare nelle grandi città anche l'estensione temporale dello sciopero del 14 era una scommessa che in parte è stata vinta, proprio perché non tutti possiamo sempre partecipare a qualsiasi momento, a qualsiasi manifestazione, proprio perché legati a lavori che non ci permettono di scioperare. Lo sciopero sociale nasce da questo, come scioperano, da un interrogativo, come far scioperare quei soggetti che non possono scioperare, che sono sempre più la maggioranza della popolazione. Beh, magari posso integrare... Sì, dopo. Sì, certo. Grazie. Assolutamente. Io direi adesso di concederci una breve pausa musicale in modo che cerchiamo di collegarci con la compagna bolognese per entrare invece nel vivo delle pratiche che sono state messe in atto all'interno dello sciopero dei generi, così riusciamo finalmente a capire meglio di che cosa si è trattato, e quindi un attimo solo di musica e poi ancora trasformazioni femministe nel martedì autogestito da Femministe e Lesbiche di Radio Onda Rossa. Allora, come anticipato, siamo al telefono con una compagna bolognese. Ciao, ci senti? Ciao, sono Beatrice. Eccoci qua. Allora, c'era Valeria che voleva farti qualche domanda. Ciao, ciao a tutte e da parte di tutte, anzi. Dunque, allora, noi vorremmo iniziare con te proprio da una genesi, che ci racconti come inizia questo sciopero dei dai generi, come nasce questa idea, in che contesto? Sì, bene, riprendo anche insomma la gioia della sorpresa di cui parlava Laura prima, insomma, rispetto invece a una continuità di percorsi, di rivendicazioni che nel corso degli anni, probabilmente anche a dispetto nostro in quanto attiviste, che spesso invece abbiamo la sensazione che le cose che facciamo a volte non abbiano un seguito, invece poi fortunatamente così non è, e così appunto vale anche per, diciamo, il discorso più particolare dello sciopero dai generi e dei generi, che di fatto è un percorso che nasce all'interno di una rete nazionale che negli anni si è decisamente consolidata, e quindi le prime occasioni in cui abbiamo cominciato a ragionare sullo sciopero dai dei generi sono, diciamo, risalgono almeno a 2 anni fa, a un paio di incontri, 2 incontri che abbiamo fatto, che abbiamo organizzato a Bologna con una rete cittadina transfemminista queer, e che erano 2 incontri che avevamo intitolato Queering Occupy. A questi incontri erano stati preceduti da un altro incontro che c'era stato a Milano, sempre all'interno appunto dei rapporti, delle relazioni che ci sono tra gruppi femministi, transfemministi e queer, che si intitolava Manovre ingenderose, e di fatto era un confronto, una discussione in cui appunto le soggettività queer e transfemministe, di cui appunto queste soggettività hanno sentito il bisogno, in particolare nel momento in cui più che nel momento in cui è esplosa la crisi, diciamo soprattutto nel momento in cui le retoriche asfissianti che sono state costruite attorno alla crisi, all'austerità, al debito, stavano appunto imperversando, e quindi la necessità appunto di elaborare una posizione propria e delle pratiche proprie che da un punto di vista queer e transfemminista andassero a interferire con questi dispositivi retorici, con queste politiche concrete poi di austerità. E questo lavoro è poi proseguito successivamente negli incontri, nelle assemblee, veri e propri incontri appunto di elaborazione collettiva del suo movimento nazionale, che è, diciamo, una soggettività che è poi quella che ha incrociato di fatto il percorso dello sciopero sociale. Dunque, un aspetto che quindi ci preme veramente ricordare è proprio questa caratteristica di un percorso collettivo in cui sono poi recuperate tante tappe, e quindi lo sciopero dei e dai generi nasce da un percorso molto lungo, e così come appunto tante altre pratiche femministe e queer. Ora forse ci potresti introdurre e spiegarci un poco che cos'è questo sciopero dei dai generi, cioè come l'avete messo in pratica, quali sono state proprio collettivamente le idee che hanno portato alla realizzazione dello sciopero dei e dai generi. Sì, dunque, diciamo che lo sciopero dei generi, come lo stesso percorso dello sciopero sociale che Nieta ha cercato in maniera brillante, credo, insomma, mi sono riconosciuta molto nel discorso che faceva Nieta di descrizione appunto del percorso dello sciopero sociale, anche proprio come uno spazio di sperimentazione vera e propria. E quindi anche lo sciopero dei generi di fatto è una sperimentazione che principalmente nella sua intenzione è quella di costruire, diciamo, una macchina di disidentificazione dai generi, e che appunto cerca di interferire, di inceppare in qualche modo sulla cattura, sulla presa delle soggettività non solo rispetto, diciamo, alla normatività dei generi e quindi alla prescrittività sociale dei ruoli di genere, ma anche appunto rispetto proprio al funzionamento del capitale, che mette direttamente poi al lavoro le differenze, i generi e le presunte caratteristiche delle soggettività in base anche all'orientamento sessuale. Quindi il primo obiettivo, diciamo, polemico di intervento, il primo campo di intervento che avevamo individuato era in particolare, proprio come esempio concreto, le politiche di diversity management, che di fatto, appunto, poi traducendolo diventa molto chiaro, diversity management, diciamo, gestione e governo della diversità, ovviamente dal punto di vista del capitale. E quindi diciamo che l'antecedente delle pratiche che abbiamo cercato di mettere in campo durante appunto le giornate dello sciopero sociale risale sempre appunto al 2012, in un'azione contestuale, diciamo, al Bologna Pride, che come rete cittadina, appunto in cui come rete cittadina abbiamo cercato di rendere visibile il fatto che le stesse banche, le stesse finanziarie che speculano di fatto sul debito producendo la crisi, sono poi le più desiderose di ripulire la propria immagine attraverso politiche di pari opportunità, quindi di fatto, diciamo, un pinkwashing del capitale. E infatti appunto il diversity manager fa il suo gioco sporco proprio su questo anche bisogno di riconoscimento delle differenze, per cui attraverso, diciamo, una pratica che noi stavamo mutuando direttamente dai movimenti in quel momento molto visibili degli Occupy, soprattutto negli Stati Uniti, quindi con una pratica, diciamo, creativa di esorcismo, attraverso dei finti curricula abbiamo cercato di evidenziare proprio questo processo di stereotipizzazione delle attitudini, delle capacità relazionali, linguistiche, affettive, che vengono poi attribuite alle donne, ai gay, alle lesbiche, ad esempio la creatività, la capacità di ascolto, il buon gusto e la sensibilità. E questo appunto è un primo esempio di pratiche che possono essere correlate allo sciopero dei generi, che servono di fatto, il discorso che noi cerchiamo di fare è che appunto, come dicevate anche voi prima, che proprio perché tutti abbiamo un genere, a tutti è stato assegnato un genere, a tutti e tutte, tutti e tutte lo riproduciamo e tutti e quante svolgiamo il lavoro del genere, il primo, diciamo, passaggio per poter poi organizzare, diciamo, le lotte, il conflitto, la resistenza, è che ognuna riconosca, e ognuno soprattutto forse riconosca, la specificità del proprio sfruttamento. Quindi di fatto fino ad ora le pratiche collegate allo sciopero dei generi sono delle pratiche sostanzialmente di autoinchiesta e di inchiesta, e quindi gli strumenti che abbiamo messo a punto e che su cui stiamo continuando a lavorare, perché appunto si tratta di un processo e non di un episodio circoscritto, come dicevi tu, Valeria, all'inizio, anche proprio per quanto riguarda lo sciopero sociale, abbiamo messo in campo appunto questi piccoli strumenti, l'Euro Strike Pass l'abbiamo chiamato, ovvero un curriculum di fatto per autocandidarsi allo sciopero, in cui poi ciascuno e ciascuna poteva anche mettere, a partire proprio dalla propria condizione, suggerire appunto a partire dalla propria condizione quale forma di sciopero avrebbe potuto mettere in campo. Poi abbiamo sempre nell'ambito del suo movimento nazionale messo appunto un tariffario del lavoro gratuito che cerca appunto di mettere in evidenza tutte quelle prestazioni che spesso sono collegate appunto al lavoro del genere, che vengono richieste sul lavoro ma che appunto poi non vengono direttamente retribuite, ma fanno parte appunto delle competenze in qualche modo richieste, e un questionario, un ulteriore questionario di autoinchiesta, proprio perché appunto si tratta di un lavoro di lungo periodo che siamo chiamate a svolgere. Senti, un'ultima domanda la vorrei fare riprendendo una parola che hai usato, sperimentazione. Una caratteristica dello sciopero sociale è sicuramente appunto di essere una sperimentazione, un'innovazione, ma è una sperimentazione su cui ci farebbe piacere riflettere tutte, è quella appunto di una dello sciopero dei generi come un lavoro che nasce appunto in un ambito queer e femminista e si inserisce invece in un contesto misto, quindi anche lì c'è un'esperienza dal punto di vista appunto dell'innovazione e della novità quantomeno. Quindi se ci puoi dire come ultima cosa appunto qualche battuta su questo aspetto dell'esperienza dei generi dentro lo sciopero sociale. Certo, ma guarda, noi come laboratorio smascheramenti di fatto siamo un soggetto che può essere definito misto in un certo senso, nel senso che per noi il queer è l'intersezione tra diversi soggetti, per cui siamo lesbiche, frocio, femministe, ma siamo anche eterodissidenti, che sono le trans, e per noi il queer da subito è stato un modo anche di lavorare appunto sull'intersezione non solo tra soggetti incarnati, tra soggettività eccentriche come ci piace dire, ma anche uno degli slogan che anche questo diciamo abbiamo mutuato in qualche modo dalle lotte queer negli occupy americani, è che la liberazione queer è anche lotta di classe, e dunque da questo punto di vista lavorare sull'intersezione tra il queer e i movimenti sociali in qualche modo fa parte diciamo della nostra mission tra virgolette, e tutto questo percorso appunto che in questo momento sta anche dentro al lavoro diciamo dello sciopero sociale, per noi appunto a Bologna prima è venuto il lavoro ad esempio all'interno della rete di Santa Insolvenza, proprio perché non riusciamo a concepire diritti civili slegati dai diritti sociali, e quindi se noi pensiamo appunto che in genere un lavoro che nel biocapitalismo relazionale la produzione di soggettività è centrale, se ci sono movimenti sociali che lavorano appunto su questi temi e che quindi hanno intenzione anche di lavorare, di aggredire diciamo in qualche modo alla radice l'adesione soggettiva che ci può essere rispetto al capitalismo appunto per organizzare e costruire lotte comuni, appunto vale la pena di puntare su anche questo aspetto dell'intersezionalità delle lotte. Infatti in questo senso sabato prossimo ad esempio qui a Bologna abbiamo organizzato una piccola iniziativa che però cerca di lavorare appunto su questa questione dell'intersezionalità delle lotte, a partire diciamo dal successo anche che ha avuto il film Pride, che non so se l'avete visto, non so che cosa ne pensate. No, non l'ho visto. Diciamo che al di là di alcune semplificazioni comunque è stato un film emozionante che comunque racconta di un'esperienza che in qualche modo dovremmo e possiamo iscrivere nelle nostre genealogie, che quindi appunto questi gruppi di lesbiche e gay che sostenevano la lotta dei minatori appunto all'alba dell'attuale fase di ristrutturazione del neoliberismo impersonificato in particolare dalla Thatcher, appunto abbiamo pensato di organizzare un momento di dibattito, di discussione, anche di visibilità, ecco, di questa esperienza che appunto ripeto può fare tranquillamente parte della genealogia dei nostri movimenti, insomma. Su questo appuntamento di sabato prossimo a Bologna concludiamo, purtroppo per anche mancanza di tempo e dare la possibilità alle altre di parlare, e ci teniamo a ringraziare tantissimo te e tutte le altre del laboratorio Smascheramenti, e un bacio, un saluto da Roma a tutte voi a Bologna. Anche a voi, a prestissimo. L'8 febbraio probabilmente ci sarà l'assemblea del suo movimento nazionale, in cui ragioneremo proprio del workshop sullo sciopero dai generi dei generi, che ci sarà lo strike meeting a Roma il 13, il 14 e il 15, quindi speriamo di vederci anche di persona, di continuare a fare tutti questi ragionamenti assieme, proprio perché trattandosi di una sperimentazione, più teste siamo a ragionarci, sicuramente meglio è. Allora, grazie di tutto e a presto, restiamo grazie in contatto. Ciao. Ciao. Ciao. No slave, I don't want you to work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you, love to you, ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. Ed eccoci di nuovo ai microfoni di Radio Onda Rossa per continuare la chiacchierata invece con le compagne che sono qui in studio con noi. Il tempo a nostra disposizione sta per finire, perché alle 19:30 il palinsesto di Radio Onda Rossa continua con le notizie del GR, quindi continuiamo a parlare ancora di sciopero sociale e di sciopero dai generi, e in particolare appunto ritorniamo alla questione cruciale di cui volevamo parlare nel corso di questa trasmissione, cioè perché la questione dello sciopero sociale ci interessa da una prospettiva femminista. Sì, di questo parlerò molto brevemente. Volevo infatti rendere chiaro che la proposta, che a partire dai processi di Bologna, che Beatrice ha descritto benissimo e che è stata anche seguita dal laboratorio romano dello sciopero sociale, è consistita nel tentativo di adottare uno sguardo di analisi femminista, però nell'intera piattaforma, che così potesse attraversare anche tutti i suoi ambiti. Quindi l'intento non era quello di costituire una parte di riflessione a sé stante, né quello di porsi come una mera quota di partecipazione al movimento. E infatti la proposta partiva non solo dall'esigenza di denunciare le misure di Renzi contenute nel Jobs Act, che riguardavano in modo specifico le donne, quindi l'elemosina degli 80 euro alla maternità o le conseguenze sulle donne dei contratti a tutele crescenti. La proposta di usare un approccio femminista, in realtà, a mio avviso, è importante chiarirlo, era quello di poter offrire degli strumenti di comprensione per svelare i meccanismi che riguardano tutti e tutte dei sistemi di sfruttamento generati oggi dai dispositivi dell'inclusione subordinata del lavoro, tanto che oggi è stato ripetuto più volte, ripreso anche dalle altre compagne, le trasformazioni neoliberiste agiscono non solo sulle singole misure economiche attuate, ma appunto fanno capo sull'idea della produttività funzionale, e quindi cambiano anche la nostra possibilità di autopercepirci. Infatti, in questo senso, le pratiche femministe possono sicuramente avere l'effetto di trasformare le forme dell'agire politico, e quindi ciò significa anche porsi fuori dalla logica del grande evento, attuare pratiche, ripeto, femministe, ma anche quelle che ha descritto Bea, transfemministe e queer, hanno l'effetto di, dentro il movimento, di rendere i corpi soggetti e non oggetti di un discorso politico, che poi a volte è sacrificato anche al sacrificio, no? Di se stessi per l'organizzazione. Quindi ecco, solo tre appunti anche per aperture reali. È la possibilità, ecco, che si diano appunto momenti di sicuramente apertura, anche di conflitto se necessario, però che ragionino anche fuori dalla logica del grande evento, fuori dalla ampia progettazione della piazza, e che siano quindi un serio luogo di confronto e apertura, anche a partire da altre istanze, per esempio come quella di No Expo, di cui ci parlerà Gea tra poco. Benissimo, ti ringrazio, scusate per la fretta con cui stiamo insomma toccando queste questioni che in realtà sono molto complesse. Speriamo sicuramente di avere altre occasioni di approfondirle insieme a voi e alle altre compagne che hanno partecipato. Però tu, Gea, invece ci volevi parlare appunto dell'esperienza del percorso che si è costituito intorno a, appunto, il movimento No Expo, e che ha una connotazione di genere molto interessante. Innanzitutto ciao a tutte, grazie mille per l'invito. Sì, mi riaggancio subito a anche all'assemblea che c'era stata del suo movimento a Bologna, dove delle compagne del collettivo Ambrosi avevano proprio sollevato la necessità di affrontare non soltanto tutto il piano che riguardava le riforme sul lavoro del Jobs Act, ma anche Expo come effettivamente un banco di prova di queste nuove forme del lavoro, ovviamente incentrate su la gratuità, sul diversity management, per cui come diciamo la proposta di Expo anche rivolta alle donne nel progetto We Women for Expo sia diciamo totalmente dentro questa tendenza di sussumere il genere e tutte quelle qualità attribuite al femminile, che così verrebbero valorizzate all'interno del mercato. Però credo che la domanda diciamo forse radicale, ossia che va alla radice anche di quello che Expo propone, sia l'idea di vita e di mondo che Expo, con la sigla Nutrire il pianeta, Energia per la vita, vorrebbe propinare a tutti quanti. Per cui da una parte una valorizzazione di una vita astratta, assolutamente diciamo decorporeizzata, costruita attorno a questa idea universale della donna come curatrice e nutritrice del pianeta. E però dall'altra parte invece come gli sponsor di Monsanto e tutte le politiche della governance globale di cui si fa in qualche modo, cioè di Expo volevo dire, che si fa, di cui si fa in qualche modo promotore, siano 70 multinazionali, tra cui per esempio Monsanto, Nestlé e altre appunto 68 multinazionali, che invece hanno come politiche anche nei territori, e non sto appunto ad elencare effettivamente i fatti, tutti quanti sappiamo di cosa si tratta, quello di distruggere invece le condizioni di riproduzione del vivente. E quindi diciamo trovo che sia anche interessante vedere tutto quello che sta succedendo a Milano, nella città di Milano, a livello di sgomberi che stanno avvenendo per preparare la città ad essere città vetrina per tutto il 2015. Ricordiamo che Expo si inaugurerà il primo maggio, tra l'altro una beffa non da poco. E per cui appunto come siano invisibilizzate diciamo tutte queste pratiche necropolitiche, no? Per cui volte proprio alla distruzione delle condizioni di riproduzione dell'essere vivente, donne e uomini, e come invece sia necessario cercare di portare alla luce denunciandole. E un'ultima cosa io volevo dire rispetto a diciamo la possibilità di pensare a delle pratiche intorno al percorso dello sciopero sociale, ossia a partire da una domanda, un interrogativo che era nato proprio all'Assemblea di Bologna, come visibilizzare non soltanto il lavoro non retribuito ma anche tutte quelle pratiche di riappropriazione nei territori dal basso, diciamo che sono delle pratiche anche di autovalorizzazione, di ricostruzione, no? Di un tessuto sociale e di relazioni, per cui si tratta anche di quella galassia forse ancora molto frammentata, però di pratiche mutualistiche che vanno dalle consultorie alle scuole di italiano per migranti, e cercare anche queste di portarle dentro al percorso dello sciopero sociale, per cui non fermarsi soltanto su un piano rivendicativo ma anche propositivo, affermativo, che sicuramente esiste, che sarebbe bello riuscire a metterle in rete anche attraverso le pratiche dell'inchiesta, della tua inchiesta di cui ci parlava Bea prima. Grazie tantissime per questi intensi spunti di riflessione. Le questioni che abbiamo messo sul piatto sono tante e appunto non c'è lo spazio e il tempo che sarebbe necessario per approfondirle, però intanto abbiamo dato un'idea di ciò che bolle in pentola, di un percorso che è ancora appunto tutto in costruzione. E quindi vogliamo, prima di chiudere, insomma, voglio ringraziare tutte le voci delle compagne che sono intervenute e dare per ultima la parola di nuovo ad Antonietta di Alexis, che magari può rilanciare qualcuno degli appuntamenti futuri o dare dei riferimenti che per chi volesse restare in contatto o partecipare attivamente a questi percorsi. Allora sì, velocissimamente, il 14 è stato solo un inizio, questa cosa l'abbiamo detta prima e l'abbiamo detta immediatamente dopo, l'inizio di un processo che si rivedrà finalmente anche per dare forma a delle pratiche e quindi concretizzare quello che abbiamo detto tante volte, quella di dar vita a una sindacalizzazione, un'attivazione diffusa nei territori tramite la federazione di questi laboratori nati sul territorio nazionale. Ci incontreremo per discuterne il 13, il 14 e il 15 febbraio qui a Roma. Ci sarà una convocazione nazionale che parlerà principalmente di sindacalizzazione, attivazione diffusa nei territori, campagne e vertenze comuni, come è stato ad esempio le vertenze sui beni comuni, l'acqua, lo sblocco Italia e molte altre, e il carattere europeo dello sciopero sociale che ad ora a cui si è alluso ad ora con delle mobilitazioni a Berlino e a Parigi e di cui si è discusso a Francoforte. Pensiamo che sia necessario ricomporre anche in questo senso sia la lettura sia l'attivazione rispetto allo sciopero. Benissimo, allora vuoi dare prima di chiudere un riferimento a un sito o il blog dello sciopero sociale dove magari chi è interessata può trovare materiale e informazioni? Allora il sito è semplice, scioperosociale.it. Comunque domani a Roma ci vediamo per il laboratorio romano alle 6:30 a Comunia, quindi può essere un primo momento per informarsi e partecipare. Benissimo, allora restiamo connesse, grazie a tutte e a tutti e continuate ad ascoltare Radio Onda Rossa. Questa puntata di Trasformazioni Femministe si chiude qui e il palinsesto di Radio Onda Rossa continua con le notizie del GR, quindi ci vediamo il mese prossimo ancora con un'altra puntata di Trasformazioni Femministe qui al martedì autogestito da femministe e lesbiche di Radio Onda Rossa.